Sette. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il messaggio che io vorrei che il PD avesse dentro il proprio cuore è che noi siamo una forza tranquilla, come avrebbe detto François Mitterrand. Capito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, tranquilli, possiamo stare tranquilli, anche la forza può essere tranquilla, così rassicura Renzi o incita Renzi. È stata una settimana molto molto ricca di notizie anche questa. Questa puntata in particolare lo sarà in modo speciale, è molto ricca, vi devo raccontare un sacco di cose, ci sono un sacco di temi, di personaggi da intervistare o di personalità o di esperti, insomma. Fra le altre cose vi dico da subito che ho sentito poco fa il cooperante che insieme alle due ragazze liberate, Vanessa e Greta, aveva creato questo progetto umanitario e con loro era andato in Siria, era lui che le aveva accompagnate in Siria. Tra poco sentirete che cosa, come ha commentato questa vicenda. Sentiremo anche, a proposito della polemica sul riscatto di 12 milioni di euro con un esperto di difesa, se effettivamente può essere che questa ipotesi sia attendibile oppure no, oppure se ci sono comunque degli scambi, perché risulta piuttosto difficile che dei sanguinari come quelli nelle cui mani erano le due ragazze possano semplicemente per generosità e bontà averle restituite. Insomma, potete fare come sempre, lo sapete, i vostri commenti attraverso due canali privilegiati: una, la pagina Facebook di Effetto Note, che è lì costantemente 24 ore su 24 per voi, e poi durante la diretta, oltre a quella, c'è anche il numero degli sms, che è il 349 238 6666. Alla fine della puntata sapremo anche che fine settimana ci aspetta, quindi un sacco di notizie, incomincio a raccontarvi le principali. La liberazione delle due volontarie, stanno bene Greta e Vanessa, oggi sono state interrogate, polemiche sul riscatto, il ministro Gentiloni precisa, solo illazioni, non è stato mai pagato. Gli attacchi in Francia, resta altissima l'allerta, fermato il complice di Koulibaly, Obama dice aiuteremo la Francia a fare giustizia, blitz anche in Belgio, due presunti jihadisti erano in fuga verso l'Italia. Quirinale, Renzi dice faremo senza chi si chiama fuori, avverte il PD è colpevole se fallisce. Banca Italia rivede al ribasso la crescita del PIL nel 2015, bene le borse, Milano chiude in rialzo più del 2%. Vigili, 12 febbraio, sciopero in tutta Italia, l'iniziativa anche dopo il caso dei vigili assenti la notte di Capodanno a Roma. E poi il caso Schwarz, Carolina Costner è stata squalificata 1 anno e 4 mesi, le dice un'ingiustizia, farò ricorso. Partiamo quindi dalla liberazione ieri delle due volontarie rapite in Siria. Oggi sono state sottoposte dai PM di Roma a un interrogatorio durato oltre 4 ore. Greta e Vanessa hanno dichiarato di aver subito un trattamento duro ma comunque tollerabile, di non aver subito per fortuna abusi. Sono state tenute in diverse prigioni nella zona nord della Siria, così hanno raccontato, spiegando che i loro carcerieri erano comunque sempre a volto coperto. Ai PM le due giovani hanno detto di non sapere nulla di padre Dall'Oglio, religioso, vi ricordate, se questa in Siria il 29 luglio del 2013. E a proposito, vi dicevo, delle polemiche suscitate dalla notizia di un presunto riscatto di 12 milioni pagato dallo Stato italiano ai rapitori, il ministro degli esteri Gentiloni, durante l'informativa alla Camera, oggi ha parlato alla Camera di questa vicenda, ha detto che si tratta solo di illazioni. L'Italia ha detto è contraria al pagamento dei riscatti, smentendo così l'ipotesi di questo pagamento, ma le polemiche non finiscono. Illazioni, indiscrezioni prive di reale fondamento veicolate da gruppi terroristici in una sorta di guerra mediatica. Così il ministro Gentiloni nell'aula della Camera liquida la questione del riscatto, smentendo di fatto l'ipotesi di un pagamento per la liberazione di Greta e Vanessa. Noi siamo contrari al pagamento di riscatti e partecipiamo al contrasto multilaterale del fenomeno dei sequestri di persone a scopo di riscatto. Il titolare della Farnesina ricorda poi che un grande paese si impegna a salvare le vite dei propri cittadini e che è giusto parlare di prudenza, ma è assurdo dire che se la sono cercata, perché accanto alla prudenza ci sono altre virtù da considerare, il coraggio e la generosità. Un'informativa che non placa però le opposizioni, tutt'altro. Per il Movimento 5 Stelle il ministro è stato a dir poco evasivo, mentre la Lega incalza e chiede che in Italia si introduca una norma per cui chi si mette nei guai si arrangia e si accolla a tutti i costi. Per Forza Italia invece l'informativa è stata più che altro un esercizio retorico, ma capiamo, dice la portavoce dei deputati Mara Carfagna che il ministro non avrebbe potuto dire nulla di più di ciò che ha detto. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. Poi sentiremo Roberto Anderville, come dicevo, il volontario internazionale che aveva accompagnato le due volontarie in Siria, con loro aveva creato questo progetto Oriati, ne parleremo dopo con lui. Intanto in Francia la tensione è ancora molto forte, a Parigi è stato arrestato un presunto complice di Koulibaly, fermati anche due presunti jihadisti che erano in fuga verso il nostro paese. Un'operazione antiterrorismo enorme che ha toccato Parigi, Bruxelles, Berlino, Amsterdam, nodi sensibili di una guerra ormai dichiarata e sicuramente lontana dall'essere risolta, come ribadisce lo stesso primo ministro francese Valls quando dichiara fortissima la minaccia di nuovi attacchi. A Parigi si interroga il presunto complice di Amédi Coulibaly, l'uomo che gli ha fornito il più rilevante supporto logistico, dicono gli inquirenti, arrestato assieme ad altre 11 persone, tra loro tre donne, in una città, Parigi, attraversata dalla paura e che nel primo pomeriggio trattiene il fiato, sgomenta quando le agenzie battono la notizia di due ostaggi in un ufficio postale. Una storia che si risolverà per il meglio, il protagonista, uno squilibrato, si arrenderà subito dopo, mentre il segretario di Stato americano John Kerry è all'Eliseo da Hollande per cercare un accordo volto a rafforzare la cooperazione bilaterale nella lotta al terrorismo. Vengono messi fuori uso tantissimi siti di informazione francesi. Una giornata dunque che ha uno strano passo anche a Bruxelles, dove l'allarme attacchi resta altissimo dopo il blitz che ha portato all'uccisione di due terroristi e al ferimento di un terzo, tutti e tre ceceni residenti a Verviers, in Belgio, al confine con la Germania, appena rientrati dalla Siria, pronti, secondo fonti investigative, a compiere un nuovo attentato, forse a una caserma di polizia. Nelle perquisizioni sono stati ritrovati Kalashnikov, prodotti per fabbricare bombe e divise da poliziotto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo sulla politica italiana, naturalmente tutta indirizzata, tutta proiettata verso l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Inizia a restringersi a non più di 10 nomi la lista dalla quale potrebbe uscire il nuovo inquilino del Quirinale, lista che vede ai primi posti quello di Romano Prodi, anche se l'ex presidente del Consiglio ne prende le distanze, quasi a volersi tirare fuori da una corsa che già nel 2013 lo vide partecipare con la bocciatura poi dei 101 franchi tiratori. Sto passando una fase molto interessante e creativa della mia vita, spiega allora Prodi, non voglio più essere in mezzo a queste tensioni e a questi problemi. Al toto nomine iniziano intanto a partecipare diverse forze politiche, il caso di Lega e 5 Stelle, Visco, Prodi, di Amato, Veltroni, su questi nomi sarà duro chiudere un accordo per il Quirinale, dice dal Carroccio Zaia. I nomi che circolano per il prossimo capo dello Stato sembrano uscire dal tunnel dell'orrore, commentano i pentastellati rimandando al blog di Grillo. Ad intrecciarsi con il Quirinale vi è quindi la partita delle riforme, un incrocio parlamentare che resta a rischio. I tempi infatti stringono, il primo scrutinio per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica è fissato per il 29 gennaio, con il governo che punta ad approvare la prossima settimana legge elettorale al Senato e Costituzione alla Camera. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Oggi intanto Matteo Renzi ha parlato alla direzione del PD senza però fare un nome per il Quirinale. Evita di bruciare il nome Matteo Renzi alla direzione del PD nel giorno in cui Romano Prodi sembra volersi sfilare dalla corsa. Il premier promette che il candidato del PD alla presidenza della Repubblica si conoscerà solo un giorno dall'inizio delle votazioni. Si convocheranno i gruppi e i grandi elettori del partito, ma prima ci sarà un giro di consultazione con gli altri partiti, ad iniziare da quelli della maggioranza. Non nasconde però Renzi che in caso di impasse la colpa sarebbe del PD. Oggi il PD è chiamato a una responsabilità rispetto alla quale o noi siamo in condizioni di fare quello che è necessario fare, oppure noi siamo quelli che saranno additati giustamente come i colpevoli. Questo non vuol dire che dovremo o potremo fare da soli, dovremo e potremo fare con gli altri. Con tutti gli altri, il Presidente della Repubblica si prova a fare con tutti gli altri. C'è poi la questione delle riforme che preme. Alla Camera c'è quella costituzionale, mentre al Senato è in discussione la legge elettorale. No alla sospensione dei lavori, anzi, se necessario per Renzi, si deve lavorare anche sabato e domenica. Difende davanti alla minoranza l'Italia come una svolta storica, lo definisce, ma Stefano Fassina dalla minoranza lo incalza sul decreto fiscale, chiede di correggere il testo e di sgombrare il campo dal sospetto di conflitti di interessi. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E spostiamoci adesso su temi economici con Banca Italia, che abbassa le stime di crescita per il 2015 per l'Italia. La strada resta quindi ancora in salita, tutto è legato alla ripresa degli investimenti. La buona notizia è la caduta del prezzo del petrolio, ma di fronte allo scenario di tensione sui mercati finanziari non bastano certo le quotazioni più leggere del greggio a sostenere la crescita. C'è anche l'ampio capitolo internazionale nel bollettino della Banca d'Italia che avvisa il nostro paese sui rischi non trascurabili che lo riguardano: le ricadute della crisi russa, la situazione politica greca, il rallentamento della tigre cinese. Stretta nella morsa dei suoi problemi domestici, per l'economia italiana la strada è ancora in salita. La ripresa dell'occupazione è fragile, le aspettative sono negative. Così Banca d'Italia taglia le stime del PIL nel 2015, più 0,4% contro più 1,3% delle stime di luglio, e suggerisce: cruciale sarà l'intensità della ripresa degli investimenti. La fotografia viene scattata al termine di una settimana al cardiopalma per borse, obbligazioni e valute, culminata con la mossa a sorpresa della Banca Centrale Svizzera di togliere il tetto 1,20 al cambio euro-franco. Una decisione che non a caso arriva alla vigilia dell'appuntamento più atteso da mesi, quello di giovedì prossimo con la Banca Centrale Europea, chiamata a dare al mercato l'atteso quantitative easing, e gli investitori sono talmente certi che arriverà un piano dettagliato che continuano a muoversi di conseguenza, schiacciando sempre più in basso la moneta unica europea, posizionata verso il dollaro sui livelli che portano indietro l'orologio di 11 anni, intorno a quota 1,15, ma anche i rendimenti dei titoli di Stato. L'ultimo record lo ha toccato proprio il BTP italiano, 1,68%, livello mai visto prima. Deborah Rosciani, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto, in attesa dell'annuncio del presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi per l'acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale, le borse hanno chiuso ancora in positivo con Milano in rialzo del 2,18%. Altro crollo invece per la borsa di Zurigo, quasi meno 6%, fatto dopo la decisione, come avete sentito, della Banca Svizzera di sganciare il franco dall'euro. Ci sono anche le previsioni meteo. È in arrivo la neve, è arrivata infatti la perturbazione atlantica dal nord con temperature in calo, potremmo dire purtroppo, però su questo, sul meteo, ci aggiorniamo alla fine della puntata, eh? Parliamo un po' delle previsioni di questo fine settimana. Chiudiamo invece col Tribunale Nazionale Antidoping che ha squalificato Caroline Kostner per 1 anno e 4 mesi per complicità nel caso Schwarzer. 1 anno e 4 mesi di squalifica più 1.000 euro di multa. Questa la sanzione comminata dal Tribunale Nazionale Antidoping a Carolina Kostner per complicità nel caso dell'ex fidanzato e marciatore Alex Schwarzer. Una sanzione inferiore rispetto a quella richiesta dalla procura antidoping, 4 anni e 3 mesi, poi riformulata in 2 anni e 3 mesi in virtù delle nuove norme. Sono molto amareggiata e andrò fino in fondo, ha dichiarato la pattinatrice azzurra preannunciando ricorso. La squalifica decorre dalla data della sentenza, quindi i titoli conquistati, il bronzo olimpico di Sochi, 6 medaglie mondiali, 9 europee e 7 titoli italiani non sono a rischio. Carolina non potrà invece partecipare agli imminenti europei e ai mondiali di Shanghai. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Molto bene, e quindi questa è la giornata in sintesi. Adesso cominceremo a approfondire alcuni argomenti in particolare. Vi dicevo che sentiremo il terzo cooperante, nel senso l'uomo Roberto Aderville, che insieme alle due ragazze, Vanessa e Greta, che sono state liberate in Siria, aveva creato un'associazione di volontariato per andare a assistere le persone bisognose in Siria. Vedo già arrivare i vostri messaggi piuttosto polemici, sia sulla pagina di Effetto Notte, sia al 349-238-6666. Quante armi per ammazzarci si possono comprare con i soldi che regaliamo agli assassini, dice un ascoltatore. Un altro dice: non credo che domani, e questo è Enzo da Varese, non credo che domani a Gavirate, che è infatti in provincia di Varese, faranno festa, che è il paese di una delle due cooperanti. Non lo so se non faranno festa, probabilmente sì, penso io. Poi Maxi: dite ai cooperanti che creano più danno che beneficio, in Italia c'è molto da fare. In realtà poi queste ragazze facevano volontariato anche in Italia. Ma secondo lei, quando tengono recluse 7 mesi due ragazze che non si sa che cosa sono andate a fare in Siria, le liberano così perché si sono stancati? Dai, ma chi ci crede, dice Lucio da Vicenza, ci vuole trasparenza. E poi discuteremo anche di questo. E direi, per i vostri messaggi, dopo è ancora al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Noto. Ogni tanto ve lo ricordo, se avete acceso la radio in questo momento. Ci sono aggiornamenti per chi viaggia dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E dopo pochi istanti vi riaccolgo immediatamente con una buona notizia. Ironicamente, naturalmente, c'è il ministro Gentiloni che è 8 e mezzo questa sera. Poco fa, è un'agenzia di adesso, ha detto: da 1 a 10 l'allarme terrorismo in Italia, torno al 7. Pensate come si possa stare tranquilli. Vi ricordo anche le altre notizie. Quirinale. Renzi dice: faremo senza chi si chiama fuori, i nostri alleati sono i primi interlocutori, il Movimento 5 Stelle stia al tavolo con noi nella trattativa. Due jihadisti belgi arrestati al confine con l'Italia, sembra che avessero un piano per decapitare un VIP. E poi c'è Marine Le Pen che torna a chiedere, la leader dell'ultradestra francese, la pena di morte. Polemica sul riscatto per le due ragazze cooperanti. Gentiloni dice: noi contrari al pagamento di riscatti. Greta e Vanessa sono state interrogate oggi dai PM, dicono: mai state minacciate di morte dai rapitori. Banca Italia taglia le stime del prodotto interno italiano per il 2015. E poi i vigili assenti: il 12 febbraio ci sarà lo sciopero generale dei vigili in tutta Italia, ne parleremo col presidente del sindacato più rappresentativo dei vigili più tardi. E poi avete sentito per doping la Costner, Caroline Costner, squalificata per un anno e quattro mesi, dice: sono molto amareggiata ma non mi arrendo. Allora, torniamo a parlare della liberazione delle due ragazze volontarie italiane, Vanessa Marzullo e Greta Ramelli, rapite a fine luglio in Siria, liberate ieri, con il clamore che c'è stato, naturalmente, comprensibilmente, prima di raggiungere le loro famiglie. In realtà poi le loro famiglie le hanno raggiunte stamattina, quando sono arrivate all'aeroporto militare Ciampino. Sono state interrogate prima di tornare ai loro paesi a Roma dai PM, che le hanno sentite per oltre quattro ore nella sede dei Carabinieri del ROS. Perché i magistrati di Roma? Perché Roma è titolare, la Procura di Roma, a indagare su tutti gli episodi criminali ai danni di italiani che si trovano in zone di guerra. Saranno risentite poi prossimamente, hanno detto che hanno cambiato più prigioni, pur restando nella zona nord della Siria, potrebbero essere finite nelle mani di più persone, non hanno mai visto in faccia i loro carcerieri perché avevano sempre il volto coperto. Durante la loro prigionia sono state sempre insieme e hanno subito, dicevano, un trattamento duro, però con livelli di criticità, come si dice, tollerabili. Hanno detto di non aver saputo nulla circa il pagamento del riscatto. Vi dicevo, sono arrivate alle 4 di mattina a Ciampino, ad accogliere c'era il ministro degli esteri Gentiloni, che ha detto: siamo contrari al pagamento di riscatti, in tema di rapimenti ci si attiene ai comportamenti condivisi a livello internazionale, poi lo sentiremo, e ha detto che è stato un gioco di squadra, insomma, per il rilascio. Adesso direi di risentire Salvatore Marzullo, che è il papà di una delle due ragazze, Vanessa Marzullo, che ieri abbiamo raggiunto proprio all'inizio della puntata, era molto felice poco dopo che si era avuta la notizia della liberazione delle due ragazze. Sentiamolo, Salvatore Marzullo. Immagino che questo, in questo momento, sia il padre più felice del mondo. Più che felice, felicissimo, certo. Senta, ma lei aveva già avuto qualche sentore che le cose sarebbero andate bene? C'era abbastanza ottimismo, e mi avevano assicurato che stavano facendo il possibile per risolvere il problema, e ciò che poi si è verificato. Come avete passato, Salvatore Marzullo, questi sei mesi di... Lunga angoscia che non auguro a nessuno, giustamente. Senta, io le faccio una domanda un po' antipatica, Salvatore. Sì. Ma lei ha lasciato sua figlia così giovane andasse in Siria, in un paese così pericoloso? Non è che l'ho lasciata, era un suo desiderio, era una sua convinzione al 100%, non sono riuscito a dissuaderla, e purtroppo, essendo maggiorenne, io gli ho dato tutti i consigli del mondo, ma ha preso il suo e purtroppo si è rivelato sbagliato. Sono state molto coraggiose, quindi lei ha rispettato la sua volontà. Però molte volte solo il coraggio non serve, bisogna usare la testa col cuore. Così ha detto il padre di Vanessa, Salvatore Marzullo, proprio ieri qui in diretta Effetto Notte. E adesso invece sentiamo che cosa ha detto nell'informativa tenuta oggi alla Camera il ministro degli esteri Gentiloni a proposito di questa polemica sul presunto riscatto pagato. Quanto al tema dei riscatti, ho letto riferimenti e indiscrezioni privi di reale fondamento e in qualche caso addirittura veicolati da gruppi terroristici. E mi sorprende che a queste illazioni e a queste fonti sia stato dato da taluno credito senza alcuna verifica. Io voglio qui ribadire che in tema di rapimenti l'Italia si attiene a regole e a comportamenti condivisi sul piano internazionale e che abbiamo operato in continuità con la linea seguita nel tempo dai governi che si sono succeduti. Non è la linea di questo governo, è la linea dell'Italia. E poi ancora sempre Gentiloni che sottolinea che il governo italiano e lo Stato italiano sono contrari al pagamento di riscatto. Noi siamo contrari al pagamento di riscatti e partecipiamo, come i paesi che ho citato sopra, al contrasto multilaterale del fenomeno dei sequestri di persona a scopo di riscatto. E nei confronti degli italiani presi in ostaggio, la nostra priorità è in ogni modo indirizzata alla tutela della vita e dell'integrità fisica dei nostri connazionali. C'è ancora Gentiloni, ve ne faccio sentire ancora un passaggio. Prima lo avete sentito col padre di Vanessa, mi facevo questa domanda che poi alla fine l'ho un po' irritato ieri, qui chiedevo, cioè, però una ragazza di 20 anni l'avete lasciato andare in un paese così pericoloso, ha detto beh, effettivamente è stata una scelta che si è rivelata sbagliata, bisogna usare non solo il coraggio ma anche il cervello. Una cosa simile ha detto Gentiloni. Quelli che hanno detto se la sono andata a cercare, io penso che abbiano detto una cosa indegna. In realtà certamente hanno fatto un'imprudenza, ma fanno parte di questo pezzo di giovani italiani che invece noi dobbiamo difendere, che sono i giovani che hanno voglia di volontariato, di aiutare le situazioni umanitarie. Leggo alcuni dei vostri messaggi tra la pagina Facebook di Fettonote e il 349-238-6666. Dice qualcuno: non hanno riscattato due ragazzi, hanno cercato di evitare un evento ingestibile dalla politica italiana. Mi sembra un po' criptico questo messaggio. Poi qualcuno invece scrive, effettivamente questa cosa che sto per leggere è oggettiva, è importante ricordare che esiste un ottimo servizio sul sito della Farnesina, cioè del Ministero degli Esteri, dove siamo nel mondo, è importante registrarsi per ogni viaggio rischioso. Effettivamente mi pare una cosa intelligente e anche consultarlo per capire dove è il caso di andare, anche se nel caso di cooperanti vanno dove c'è bisogno. Poi al di là del giudizio in particolare su queste due ragazze, Luigi in modo ironico: perché non facciamo una colletta fra tutti i sostenitori delle due ragazze per contribuire al riscatto? E invece, rispetto ad altri messaggi molto polemici, Matteo scrive: sono esterrefatto, sono salve due ragazze, invece di festeggiare si fanno solo polemiche. L'Italia, che ti succede? Allora adesso vi faccio sentire, l'ho raggiunto poco fa, Roberto Anderville, che è il cooperante che accompagnò Greta e Vanessa in Siria e aveva creato con loro questa associazione, tra loro tre, il progetto Horiati. Sentiamolo. Buonasera. Progetto Horiati. Horiati, che significa tra l'altro? La mia libertà. La mia libertà. Quando è nato questo progetto? Questo progetto nasce a marzo di quest'anno, no mi scusi, 2014, l'anno scorso, sì. Dopo un primo sopralluogo in Siria effettuato da me e dalle due ragazze. Quindi avete deciso voi insieme, voi tre, di fare questa cosa, è un progetto vostro? In realtà sì, diciamo che in realtà hanno deciso le due ragazze, io ho conosciuto le due ragazze in una manifestazione a sostegno della rivoluzione siriana e... le due ragazze avevano voglia di impegnarsi in prima persona per aiutare, insomma, i popoli in difficoltà o comunque le popolazioni in difficoltà di quelle zone e hanno chiesto a me un aiuto per portare avanti questa cosa. Perché lei, normalmente, perché lei normalmente di cosa si occupa? Mi scusi se l'ho interrotta. Io normalmente non mi occupo cooperazione e volontariato all'estero. Quindi segue questi progetti, loro hanno pensato di fare riferimento a lei. E... io dal 1998 ho cominciato con esperienze in Bosnia e ho portato avanti questo tipo di attività. Ma quando queste, quindi sono ragazze animate sicuramente da spirito umanitario, certo, da grande empatia verso chi soffre, da grande coraggio evidentemente, però avete fatto due tappe mi pare in Siria, la prima volta un po' di mesi fa e poi l'ultima quando le ragazze sono state rapite, no? Il 31 luglio scorso. Ecco, in realtà i viaggi sono stati tre, nel senso che nel primo c'ero anch'io e ho fatto un sopralluogo, ho conosciuto i referenti che ci avrebbero accompagnato. Poi i referenti appunto siriani che ci avrebbero accompagnato in questa operazione, diciamo in questo progetto, e poi c'è stato un secondo viaggio dove Greta e Vanessa sono andate comunque accompagnate dal giornalista Raineri e il terzo viaggio dove c'era ancora lui insieme a loro nel viaggio. Questo giornalista, dice lei? Esatto, il terzo viaggio è stato diciamo l'ultimo, quello dove poi appunto le ragazze purtroppo sono state sequestrate. Anderville, quello che probabilmente molti si chiedono, no? Mi chiedo anch'io personalmente, l'ho chiesto ieri al padre di Vanessa in diretta, le ragazze erano consapevoli, così giovani, tutte e due ventenni, di andare in un paese che da almeno due anni, se non sbaglio, una guerra civile terribile, quindi già un soldato agguerrito, preparato, formato da tempo, con un pelo sullo stomaco così, insomma, è grandissimo rischio, e loro non erano consapevoli del rischio di non tornare più indietro. Guardi, io le dico che Greta e Vanessa sono due ragazze assolutamente determinate e non sono le ventenni sprovvedute che cercano di dipingere e che di far passare attraverso un'opinione pubblica che fondamentalmente non le conosce, ma nel senso, le dico, senza nulla togliere a tante cose che sono state dette e scritte, chi crea articoli credendo di conoscerle in realtà non ci ha mai parlato. È questo che fondamentalmente mi dà molto fastidio. Hai conosciuto Greta, hai conosciuto Vanessa, hai parlato con loro, sai che determinazione c'è dentro di loro, magari puoi permetterti di scrivere. Non sai nulla di loro, non sai nulla di noi, non sai nulla di me. Non sono mai stato maleducato con nessuno quando sono stato chiamato, sia durante il appena sequestrate, durante, dopo l'uscita del video del 31 dicembre e adesso che sono state liberate. Siamo sempre stati gentili e disponibili con tutti. E scrivere determinate cose o comunque a priori partire con l'idea che siano due qualcuno ha scritto radical chic, niente di più lontano questo immagino realtà. Anzi, ci vuole tanta il stima. Il discorso è che Greta aveva comunque un'esperienza pregressa di volontariato in Africa e in India e entrambe le ragazze facevano volontariato anche in Italia, questa è un'altra cosa che vorrei sottolineare. La frase che purtroppo ricorre spesso era che non era che sembra che fare in volontariato in Italia faccia meno come dire clamore, meno punteggio, no? Esatto, ma non è così. Le due ragazze, come me del resto, si fa volontariato in Italia e si fa volontariato anche all'estero. Questo perché per noi le persone che soffrono non sono di serie A o di certo, serie B, ma sono persone che soffrono. Dicono solo mi questa Roberto, cosa. Per favore. Roberto, volentieri, io mi chiamo Roberta. Grazie. E do del tuo a tutti in genere, quindi se preferisci grazie, anche Roberta. Del tu, Roberto te lo do. Però quello che voglio dire, io non ho nessun dubbio, non si ha nessun dubbio sulla determinazione di queste ragazze, sulla bontà, sulla voglia di aiutare gli altri invece di far andare in discoteca, di scoprirsi nelle relazioni sentimentali sessuali come la gran parte dei ragazzi della loro età. Però forse in un paese così in guerra fratricida e con terroristi sanguinari che vanno e vengono, è il caso. Diciamo che la situazione siriana è parecchio peggiorata nell'ultimo periodo, questo sì, però come dire, avendo anche dei referenti attraverso i quali ci si informa, io ricordo benissimo che la prima volta che sono stato in Siria con loro, a un certo punto i nostri referenti hanno pensato che fosse per noi pericoloso e quindi ci hanno riaccompagnati in Turchia. Perché, come dire, è ovvio che tu vai in un posto dove, come dire, si rischia un po' di più che andare al centro commerciale la domenica, però lo sai, non è che non lo sai, non vai là pensando alle favole, assolutamente sei consapevole dei rischi che corri, ma la voglia e la forza di aiutare delle persone in difficoltà, tra l'altro delle quali nessuno parla e nessuno si prende carico, e questo, come dire, il senso di ingiustizia che c'è nei confronti di queste persone ti muove qualcosa di più grande. Una cosa che però non è, come dire, non ci fa diventare incoscienti, ok? Però ovvio, Roberto, io nel 2012 sono stato a Gaza, ok? Sì. È ovvio che tu vai a Gaza sapendo benissimo che se in quel momento decidono di bombardare tu sei lì. Lo so, non è che non lo so, ma questo non mi ferma, perché se no stiamo a casa. Roberto, purtroppo... però poteva capitare, essendo tra l'altro anche donne giovani, carine, certo. Un conto una bomba a Gaza che ti cade in testa, purtroppo muore, però si può andare incontro a cose ben più cruente, lo so e lo sapevano anche loro. Non è che te l'ho detto prima, Roberta, vorrei un po' sfatare questo. Sì, sì, è chiaro, ma le hai sentite? Comunque le hai sentite adesso che sono arrivate in Italia? No, non le ho ancora sentite. Pensi che le sentirai a breve? Spero di sentirle presto. Però io, prima di tutto, voglio che loro tornino a stare bene prima possibile. Che cosa dirai loro? Cosa pensi non lo so. Posso dirti sinceramente, non lo so. Non lo so perché. Perché molto probabilmente non ci sarà neanche bisogno di dire nulla. Hai temuto per la loro vita o pensavi che sarebbe finita? Assolutamente sì. Va bene Roberto, io ti ringrazio intanto di questa intervista. Buona continuazione. Grazie a te, buon programma. Ciao Roberto, ciao. questo avete sentito era Roberto Underville, appunto uno dei cooperanti che insieme alle ragazze aveva creato questo progetto umanitario, era andato con loro in Siria la prima e seconda volta, come avete sentito. Poi sono state rapite il 31 luglio. Vedo già dei vostri messaggi che arrivano anche su questo. Dice Angela: ma bastano 3 persone per fare un'organizzazione a cui vanno soldi pubblici, ma che coraggio d'Egitto, e solo stupidità e bugie sul riscatto. Vabbè, sono 2 cose separate. Sul riscatto poi saprà o meno il nostro governo, il nostro Stato, le istituzioni. Sul fatto che ci siano stati soldi pubblici, questo effettivamente, preso al volo poco prima della trasmissione, non mi è venuto in mente di chiedere se ci fossero soldi pubblici, ma magari cercherò di appurarlo, almeno di chiederglielo. E poi qualcuno dice: ma al di là del riscatto, quanto è costato recuperare 2 imprudenti che vanno a fare l'eroe in Siria? Perché non si mette lo stesso impegno nel recuperare 2 maroni inviati in missione ufficiale dall'Italia? Ci sono tante questioni, queste sono comunque 2 questioni differenti, al di là di come si voglia trattare. Non uniamo troppa carne al fuoco, sono cose che non si possono comunque comparare, anche se anche lì ci vuole la diplomazia italiana non poco e altre misure che il governo saprà o dovrebbe adottare. Intanto ci fermiamo, c'è sempre il numero per i vostri messaggi, che è il 349-238-6666, per i vostri commenti, anche sempre naturalmente la pagina Facebook di Effetto Notte. Tra pochi istanti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi, sempre i vostri messaggi, come ne stanno arrivando tantissimi, molti, vi dicevo, polemici, critici, qualcuno un po' pesantuccio. Firmatevi anche un bel messaggio che potevo leggere, non vedo la firma, ma comunque è personale. Poi qualcuno dice: cari Greta e Vanessa, bentornate a casa, ora però restituite quanto pagato ai vostri rapitori, dato che ci avete, che vi avevano preavvisato e ammonito dei gravi rischi, dice Daniele, questo da Calolzio Corte, che credo sia nella Bergamasca. E poi così molti anche un po' su questa linea. Non è andata bene, ma ho il sospetto cattivo e discutibile che troppo spesso chi critica l'impegno altrui cerca un alibi all'inazione. Preferisco chi si mette in gioco anche sbagliando. Così scrive Angelo, visto che abbiamo parlato lungamente delle 2 ragazze liberate, Greta e Vanessa, delle polemiche sul presunto riscatto, abbiamo fatto risentire il padre che avevamo in onda ieri in diretta, e poi il cooperante che insieme a loro ha creato questo progetto umanitario e che ha detto insomma che cosa pensa di questa vicenda. Ora fra poco, prima vi ricordo quali sono le notizie più importanti di oggi, come sempre, dopo le pause, così vi rammemoro, oppure se avete acceso la radio in questo momento ricordatevi sempre che Effetto Notte inizia alle 21 e lo state ascoltando in tutto il mondo, c'è gente dal Canada che scrive, dalla Francia, dalla Germania, per essere aggiornato ogni sera, quindi non perdetelo voi che siete comodamente qui in Italia. Tra poco torneremo sulle questioni legate al terrorismo, però queste sono le notizie più importanti della giornata. Appunto, la liberazione delle 2 volontarie, stanno bene Greta e Vanessa, oggi sono state interrogate per quasi 5 ore, polemiche sul riscatto, il ministro Gentiloni precisa solo illazioni, non è stato mai pagato. Gli attacchi in Francia, resta altissima l'allerta, fermato il complice di Koulibaly, Obama dice aiuteremo la Francia a fare giustizia, intanto blitz anche in Belgio, 2 presunti jihadisti erano in fuga verso l'Italia. Per il nostro paese Gentiloni dice che l'allarme terrorismo da 1 a 10 è pari a 7. Il Quirinale, Renzi avverte, faremo senza chi si chiama fuori, e dice il PD è colpevole se fallisce. Banca Italia rivede a ribasso la crescita del PIL italiano nel 2015. Il 12 febbraio ci sarà lo sciopero generale dei vigili in tutta Italia, l'iniziativa anche dopo il caso dei vigili assenti la notte di Capodanno a Roma, di questo parleremo più tardi. E poi il caso Schwarz con Caroline Kostner, che è stata squalificata 1 anno e 4 mesi, accusata di complicità col suo ex compagno, lei dice è un'ingiustizia, farò ricorso. Dunque, poi avete sentito dalla ricostruzione della giornata, dalle cronache di oggi, eccetera, 2 jihadisti belgi sono stati arrestati al confine con l'Italia. Pare volessero decapitare un VIP, non ben precisato. Ieri poi, sempre in Belgio, sono stati uccisi 2 terroristi. Con un blitz 27 persone sono state arrestate oggi tra Francia, Belgio, Germania. Anche il complice di Koulibaly. Koulibaly è il terrorista che ha inseguinato Parigi insieme ai fratelli Kouachi, quello che si era serragliato nel negozio di prodotti kosher. E pare, c'è una specie di notizia, pettegolezzo, insomma, comunque ha a che fare con una persona che è ricercata a livello internazionale, che Hayat Boumediene, che sarebbe la moglie di Koulibaly, pare che sarebbe, che è incinta. Questo lo rivela BFM TV, citando la testimonianza di alcuni amici del terrorista che appunto Koulibaly. Sempre secondo la stessa testimonianza, prima dell'attacco l'attentatore, poi ucciso, vi ricordate, dalle teste di cuoio nel raid al supermercato kosher alle porte di Vincennes, Ben avrebbe affermato: non vedrò mai mio figlio, ma lo incontrerò in paradiso. Quindi pare che la moglie, ricercata a livello internazionale, sia anche incinta. L'Unione Europea alza il livello d'allerta. Gli 007 americani dicono che ci sono molte cellule dormienti in Europa. Hollande, presidente francese, lancia l'appello: bisogna cercare insieme delle risposte. Obama fa sapere: aiuteremo la Francia a fare giustizia. Gli fa eco anche il primo ministro britannico Cameron. E Gentiloni, avete sentito poco fa che cosa ha detto. Allora chiamo in causa Andrea Margelletti. Ciao Andrea. Buonasera a voi e grazie per l'ospitalità, naturalmente un saluto ai tuoi ascoltatori. Presidente del CESI Andrea Margelletti, del Centro Studi Internazionali, è stato anche il consigliere strategico del Ministro della Difesa, insomma più di lui ne sanno pochi, diciamo. Andrea, intanto questa polemica sul riscatto pagato, non pagato, comunque possiamo dire che qualche scambio c'è stato, perché non possiamo credere alla bontà, alla generosità, alla pietà di questi terroristi, no? Non vi sono dubbi, il punto è politico. Allora, vogliamo che dei cittadini italiani che vengono rapiti possano tornare a casa? Se lo vogliamo, e naturalmente tutti lo vogliamo, vi sono due strade. O quella di una negoziazione che può portare a una soluzione di compromesso tra quanto vogliono i rapitori e quanto siamo disposti a cedere noi, oppure un'operazione, un blitz militare. Non vi sono terze vie, perché non possiamo ovviamente immaginare di lasciare nelle mani di assassini dei cittadini inermi. E poi tutto il resto sono chiacchiere. È un punto politico. L'Italia è disposta a fare quello che praticamente non fa nessuno, perché diciamo che pagano tutti. Ma veramente tutti, forse sono gli unici che non pagano, sono i britannici. Gli americani addirittura scambiano terroristi per soldati catturati. Pochi mesi fa, una coppia di tedeschi è stata liberata grazie all'intervento, di supporto del servizio segreto tedesco nelle Filippine, che erano stati rapiti da terroristi islamici in quel paese, e via dicendo tutte le altre nazioni. Oppure si sceglie la via del blitz militare, che può andare bene. Noi abbiamo il COPS, che è il comando delle nostre forze speciali, con dei reparti d'élite d'eccellenza, ma ripetiamo e ricordiamolo che le operazioni perfette esistono soltanto nei film, quindi può andare benissimo, ma può andare ovviamente anche non bene. Quindi c'è poco, Andrea Margelletti, da questionare su queste vicende, perché dici: se vogliamo riportare nostri connazionali in patria, come fanno anche gli altri stati, un qualche scambio ci deve essere. Tu non hai voglia poi di commentare se sia il caso di non andare o non andare. Certo che se qualcuno fa il volontario, il cooperante, in questo caso effettivamente forse erano un po' giovani, e poi insomma momento in cui la Siria è completamente devastata dalla guerra, no? Allora, io sono molto scocciato per questa vicenda, e lo dico perché da una parte c'è il doveroso, per chi ha voglia di impegnarsi nel sociale, per chi ha voglia di aiutare, per chi vuole anche guardare il mondo, desiderio di fare qualcosa fuori dagli schemi. Dall'altra parte bisogna rendersi conto che non siamo più nel paese delle bambole, che non possiamo muoverci come se fossimo a Euro Disney, e che quindi quando vuoi intraprendere un'attività lo devi fare nelle migliori condizioni possibili. Vi sono fior fiori di organizzazioni, di ONG che lavorano in teatri estremamente difficili, estremamente complessi, dove sono già di pericolosi di per sé, vale la pena di appoggiarsi a quelle realtà, ma muoversi in maniera totalmente improvvida, mettendo non soltanto a rischio la propria vita, e ciascuno, come posso dire, è custode delle proprie ragioni, ma mettendo anche a repentaglio, e soprattutto a repentaglio, quello di uomini e di donne che devono rischiare la propria esistenza per venire a prendere e a recuperare chi si è mosso con una criminale superficialità, è semplicemente inaccettabile. Vuoi fare un'esperienza, vuoi aiutare a costruire un mondo migliore? Lo puoi fare con maggiore senso di responsabilità. Appoggiati a realtà importanti, strutturate, che sono presenti in tanti scenari, ma non lo fare muovendoti così, con la baldanza di chi non ha, di chi vive come se non ci fosse un futuro. Andrea Maggioletti, sei stato chiarissimo, non potevi essere più chiaro nella tua convinzione su quanto hai detto su questa vicenda. Ti chiedo molto brevemente, Andrea Maggioletti, come commenti quello che ha detto Gentiloni a 8:30 questa sera? Ha detto che l'allarme terrorismo in Italia da 1 a 10 è 7. Sembra abbastanza inquietante. Ma ritengo che non abbia, che il ministro Gentiloni abbia dato uno specchio di quello che è la situazione dall'11 settembre in poi del 2001. Cioè non, il nostro paese è impegnato in missioni di stabilità all'estero. Ricordiamoci che abbiamo perduto tante persone nella lotta al terrorismo, fortunatamente non in Italia, ma tanti nostri militari e civili sono caduti all'estero, e quindi che la situazione sia estremamente critica e contestualmente sia necessario avere un livello di non solo di attenzione ma anche di senso di responsabilità più elevato di quello che dovrebbe essere normale, mi pare che il ministro Gentiloni sia stato chiarissimo. Grazie mille Andrea Maggioletti. Buona continuazione. A voi, grazie, a presto. Ciao Andrea, viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Vi ricordo quelle principali con la corsa al Quirinale. Renzi dice faremo senza chi si chiama fuori, e poi i due jihadisti belgi arrestati al confine con l'Italia pare avessero un piano per decapitare un VIP, e oggi blitz 27 arresti tra Francia, Belgio, Germania, insomma l'Europa in allerta, e poi la polemica sul riscatto per le cooperanti. Europa 24 notte in collaborazione con Euronet Plus. Oggi seconda giornata italiana per il vicepresidente della Commissione europea Katainen a Milano, dopo che è stato a Roma, per presentare il piano di investimenti del presidente Juncker. Intervistato da Sergio Nava, Katainen traccia il bilancio della due giorni di incontri, rivela di non aver ricevuto ancora impegni su finanziamenti pubblici o privati per il piano europeo e parla anche della necessità di liberalizzazioni e privatizzazioni in Italia. It has been extremely useful and positive visit. Quella in Italia è stata una visita molto utile e positiva. Ho imparato molte cose sul vostro paese, ho potuto parlare con gli investitori privati, con i sindacati, con molti ministri e spiegare loro cosa significhi davvero il piano di investimenti europeo. Sono abbastanza felice del feedback positivo. For the positive feedback what we have got. Perché abbastanza? Of course there are always critical points. Ovviamente ci sono sempre criticità. Alcuni ci accusano del fatto che la capacità di leverage del fondo sia esagerata, per esempio. Ma i punti di vista e i dubbi ci sono sempre. In ogni caso sono felice per il feedback. Il problema però è che, a parte i vostri fondi e quelli della BEI, mancano ancora i soldi per il cosiddetto piano Juncker. Ha ricevuto rassicurazioni su fondi pubblici o privati che l'Italia potrebbe versare. We have not got any clear indications from... Non abbiamo ricevuto indicazioni chiare dagli Stati membri circa l'iniezione di capitali nel fondo. Se contribuiranno, riusciremo a incrementare la capacità di prestito di 60 miliardi. Si tratta di denaro che creerà occupazione, ma se i Paesi membri non lo faranno, riusciremo comunque a lavorare con 60 miliardi. Si arricchirà di risorse private, il che ci porterà al livello di 300 miliardi di investimenti. To the level of 300 billion investments. Insomma, se capisco bene, non avete ricevuto alcuna promessa o impegno di investimento nella due giorni italiana. Not yet from Italy, but non ancora, ma so che il governo italiano sta considerando il da farsi. Così mi ha detto il ministro Padoan. Il piano di investimenti europeo riguarderà anche progetti italiani. Avete già un'idea di quanti riuscirete a finanziarne e cosa pensa della qualità di questi progetti italiani che sono stati presentati? Il fondo di investimenti finanzierà solo progetti di alta qualità. Per noi finanziare significa dare prestiti, non c'è denaro gratis. Se ci sono investimenti pubblici, sarà il governo a decidere quanti prestiti in più si potranno ricevere. Il valore aggiunto del fondo europeo sta nell'investimento su progetti a rischio. Posso immaginare che ci siano molti progetti e molte opportunità in Italia che potranno chiedere fondi al nostro piano. Ma ricordo anche che esiste la possibilità di chiedere prestiti pure alla BEI. Sulla qualità dei progetti italiani posso dirle invece che sembrano buoni. Ora, il governo deve stabilire la lista prioritaria. Lancio però un appello al settore privato affinché consideri la possibilità di finanziamenti di rischio. La questione principale è quella di massimizzare massimizzare la quantità di fondi privati anziché di quelli pubblici. Lei in questi giorni ha parlato molto in Italia di Jobs Act, di riforma della giustizia, per fare un esempio, ma in tema di riforme strutturali c'è pure la questione delle liberalizzazioni e delle privatizzazioni. Quanto le ritenete importanti per il nostro paese? Farete pressione a riguardo sul governo italiano? Non ne abbiamo parlato stavolta, ma lo abbiamo fatto in passato. Le privatizzazioni e le liberalizzazioni professionali rappresentano un capitolo molto importante della crescita economica. So che questo è un tema molto sensibile dovunque, ma posso portare il caso finlandese. Nei primi anni 90 abbiamo liberalizzato il settore delle telecomunicazioni, creando centinaia di migliaia di posti di lavoro. Da premier ho venduto azioni di alcune imprese pubbliche per investire nella ricerca. Spero che tutti mantengano la mente aperta, considerando il guadagno derivante dall'apertura del mercato. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. Ancora tanti messaggi sulle ragazze liberate, poi sulle polemiche, li vedo anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, potete continuare a commentare anche tra di voi, se volete. Intanto passiamo all'argomento dei vigili, che hanno indetto uno sciopero per il 12 febbraio, uno sciopero in tutta Italia degli agenti della polizia locale, e l'astensione è stata proclamata dal sindacato OSPOL CSA, che rappresenta la maggior parte dei vigili urbani degli 8.000 comuni italiani. L'iniziativa è in qualche modo anche legata e viene dopo il caso dei vigili assenti la notte di Capodanno a Roma, vi ricordo. Ricordate le polemiche anche in quel caso, più dell'80% aveva un certificato medico la sera di Capodanno. E per la prima volta comunque la categoria è in piazza. Ne parliamo con Luigi Marucci. Buonasera Marucci. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Presidente di OSPOL, che è l'organizzazione sindacale delle polizie locali. Come mai questa decisione clamorosa, Marucci, per la prima volta? Ma non è affatto clamorosa. Covava questa decisione da tempo perché la polizia locale d'Italia hanno bisogno di uno status, perché alcune volte lo stesso governo, gli stessi amministratori comunali si identificano come impiegati comunali, si trattano come impiegati comunali, e alcune altre volte, quando fa comodo, vogliono che facciamo polizia. Noi polizia a tutti gli effetti, cioè polizia di sicurezza. Noi chiediamo allo Stato, cioè al governo, di dare uno status nuovo e unico alle polizie locali. I carabinieri devono essere carabinieri, la polizia di Stato deve essere polizia di Stato. Noi vogliamo uno status o di impiegati comunali o di polizia. Cioè, in poche parole, noi somigliamo molto di più a un poliziotto che a un impiegato comunale, pertanto il nostro lavoro è proiettato verso un riconoscimento dello status di polizia. Ma voi quali dei due status preferite? Non capisco bene se quello dell'impiegato comunale o quello della polizia. Ma noi indossiamo una divisa, abbiamo le qualifiche già attualmente di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza alla pari delle altre polizie, pertanto vogliamo la stessa qualificazione, gli stessi diritti in materia di sicurezza del lavoro degli agenti di polizia dello Stato. Mi dica solo una cosa, Marucci, in breve, cosa ne pensa della vicenda di Roma? Non rischia, legandosi al vostro sciopero, guardi, di... No, ma guardi, la vicenda di Roma è quella che ha scatenato il putiferio non solo a Roma, ma in tutta Italia, perché hanno lanciato fango all'istituzione delle polizie locali d'Italia, non solo a Roma, ma si è riflesso in tutta Italia. Noi abbiamo 18.000 contatti di colleghi da tutta Italia che stanno con la Polizia Municipale di Roma, che in questo momento sta soffrendo un attacco mai visto nella storia della Polizia Locale d'Italia. Luigi Marucci, ne riparleremo intorno al 12 febbraio, vediamo se si può trovare una mediazione oppure no, comunque ci riaggiorniamo. Grazie e buon lavoro intanto. Prego, buonasera. Grazie. E ora dobbiamo sapere subito da Paolo Corazzoni di Trebin Meteo cosa ci aspetta per il fine settimana. Andiamo sul tempo, Paolo, ciao. Buonasera Roberta, buonasera a tutti gli ascoltatori. Beh, guarda, sarà un weekend comunque molto instabile e variabile, perché una perturbazione attraverserà tutta l'Italia da nord a sud. Quindi, per farla breve, si parte con domani condizioni di maltempo al nord, tanta pioggia in pianura e soprattutto tanta neve in montagna, aggiungerà anche finalmente le nostre Alpi ne hanno bisogno. Poi in giornata cominciano ad arrivare un un peggioramento anche nelle regioni centrali, con delle piogge su Toscana, Lazio, Sardegna e forse anche Umbria. E poi per domenica invece la situazione si capovolge: al nord il tempo migliora e invece la perturbazione arriva al sud con il suo carico di nuvole e piogge. In ultimo un accenno anche alle temperature, perché sarà comunque ancora un weekend molto mite al centro-sud, complice lo scirocco, si potrà addirittura superare i 15 gradi, battiamo record su record anche in questo inverno. Al nord temperature un po' più contenute e da domenica graduale abbassamento un po' in tutta Italia, settimana prossima sarà un po' più invernale come temperatura. E ci tocca l'inverno, che bisogna dire. Grazie Paolo Corazon. Sì, a te, ciao, ciao, ciao. Ciao Paolo, buona continuazione. Ci sentiamo tra poco.